Mango Tart legge Mana Cold di Sen Lin Yu. Capitolo 17. Era al terzo piano di Grimold Place. Il corridoio era tranquillo e scarsamente illuminato. Era sera tardi o le prime ore del mattino. Passando davanti a una delle stanze più piccole, scorse una ciocca di capelli rossi piegata su un tavolo di mappe. Si fermò e batté leggermente sulla porta. «Ehi, Mione!» disse Ron distrattamente mentre spostava punti sulle mappe e poi si grattava distrattamente la testa con la bacchetta. Aveva un'espressione tesa. «Hai un minuto?» chiese lei. «Certo!» Ron si infilò la bacchetta nella tasca posteriore e alzò lo sguardo verso di lei. «Sto solo memorizzando quello che è successo da quando me ne sono andato. Ci sono state un sacco di incursioni mentre eravamo via. Devi esserti data da fare.» Le rivolse uno sguardo penetrante. Hermione abbassò gli occhi. «Sono sicura che vedi la strategia», disse a bassa voce. «Kingsley sta usando gli Horcrux per tenere Harry fuori dal campo», rispose lui. Hermione fece un breve cenno. «Capisci perché, vero?» L'espressione di Ron si indurì ulteriormente mentre scrollava le spalle e annuiva. «Non va bene metterlo in pericolo per una scaramuccia quando ci serve per il colpo finale.» «Sì, ho capito. Questo non significa che mi piaccia, e alcune di queste...» Tirò fuori alcune pergamene e diede un'occhiata. «Sono praticamente missioni suicide. Non mi ero reso conto di quanto Kingsley fosse andato sul sicuro a causa di Harry. Vedremo cosa farà quando staremo via per qualche settimana.» Si interruppe, fissando con rabbia i rapporti. «Qual è stato esattamente il tasso di vittime?» Hermione aprì la bocca per rispondere e lui la interruppe. «Non ho bisogno che tu me lo dica. Vedo i numeri, proprio qui. È incredibile, cazzo! Se Kingsley fosse qui gli darei un pugno!» Stava diventando scarlatto per la rabbia. «Ron, non possiamo più permetterci di andare sul sicuro», disse Hermione con lo stomaco che si annodava mentre pensava a quanti occhi aveva chiuso nelle ultime settimane e al nuovo rifugio. «Non credo che tu ti renda conto di quanto siano scarne le nostre risorse. Per quanti anni credi che il cavo di Harry possa nutrire un esercito? L'ospedale sta andando a rotoli. L'Europa si sta chiudendo sotto il controllo di Tom. L'unica opzione che ci rimane è correre dei rischi. E non possiamo rischiare Harry.» Ron rimase in silenzio. Hermione poteva vedere i muscoli della sua mascella tendersi mentre continuava a stringere e rilasciare. «Dobbiamo trovare gli Horcrux», disse infine. Hermione lasciò uscire il respiro basso e profondo che aveva trattenuto e annuì. «È quello che dobbiamo fare», disse lei. «Tom e Harry sono eterni. Ideologicamente i mangiamorte sono troppo diversi. È il potere di Tom che mantiene coeso l'esercito. Se riusciamo a ucciderlo permanentemente, dovrebbero esserci abbastanza lotte interne da dare il sopravvento alla resistenza.» «Immagino che questo sia l'unico lato positivo del delirio di immortalità di Tom. Non si sta preoccupando di designare un successore», disse Ron legnosamente mentre esaminava un altro rapporto. Hermione scorse la propria firma in calce. Verificava i feriti. Calcolava le perdite in numeri ordinati e impersonali. «Anche se dubito che i Malfoy penseranno di essere i primi della fila ora che Bellatrix è morta. Fottuti psicopatici.» «Devi convincere Harry che gli Horcrux sono la nostra priorità», disse lei, fissando Ron intensamente. «Soprattutto adesso, dopo Ginny. Ho paura che voglia solo ignorarli.» L'espressione di Ron divenne tesa. «Sì», disse a bassa voce. Hermione si avvicinò, esitante. «Ron, spero che quello che ho detto alla riunione ieri sera non ti abbia fatto sentire come se fosse colpa tua. Hai salvato Ginny. Non pensavo fosse appropriato nasconderti l'informazione, ma non volevo ferirti rivelandola.» «Va bene», disse lui con l'espressione rigida. «Hai fatto la scelta giusta.» «Mi dispiace, non farlo. Non voglio parlarne, davvero», replicò con una voce tremante che non ammetteva discussioni. Hermione lo guardò, riconoscendo la tensione intorno ai suoi occhi, lo scarlatto che gli faceva scaldare le orecchie mentre il suo viso diventava così pallido che le lentiggini risaltavano come gocce di sangue. Se avesse spinto, sarebbe esploso. Sentì il cuore sprofondare. «Giusto, bene, ti lascio memorizzare», disse, girandosi per andarsene. Riprese conoscenza e, stordita, trovò qualcuno chino su di lei, che le inclinava la testa all'indietro. Il lato destro del viso e il corpo erano rigidi. Non riusciva a muovere le dita e la lingua le faceva male come se si fosse morsa ripetutamente. Si scostò e la persona, un uomo, smise di toccarla. Fece un passo all'indietro e la guardò attentamente. Lei lo fissò confusa. Era pallido e biondo e il viso, che le era sembrato espressivo quando aveva aperto gli occhi per la prima volta, era accuratamente vuoto. «Hai avuto una crisi», disse con voce calma. «A quanto pare le pozioni di fertilità e la legimanzia non vanno d'accordo». Abbassò lo sguardo sulla bacchetta che aveva in mano. «Riesci a parlare? Hai urlato per diversi minuti». Hermione lottò per deglutire. Sentiva la gola arsa, come se diversi minuti fossero un grossolano eufemismo. Cercò di aprire la bocca e scoprì che i muscoli della parte destra della mascella erano così tesi che riusciva malapena a separare i denti. Era esausta, come se fosse stata fulminata. I muscoli e i tendini erano come tesi fino al punto di spezzarsi. Quando cercava di respirare, le veniva solo un suono basso e ansimante dal fondo della gola. Cercò di ricordare quello che era successo. Cercò di sedersi, ma il suo corpo non collaborò. Scoppiò in lacrime. «Chi sei?» Biascicò tra i denti quando finalmente smise di singhiozzare. Fissò l'uomo in piedi accanto a lei. Una miriade di emozioni si accese improvvisamente sul suo volto. Aprì la bocca, poi la chiuse fermamente ed esitò. «Sono il responsabile della tua cura», disse infine, l'espressione vuota ancora una volta. Tirò fuori dal nulla una piccola fiala. «Dovresti prendere questo. Probabilmente sarai in grado di ricordare cosa è successo quando ti sveglierai». Hermione esitò e poi annuì in segno di assenso. Lui le fece scivolare una mano sotto il collo alla base del cranio e la aiutò a inclinare il corpo rigido verso l'alto, in modo che potesse ingoiarlo. Non appena lo bevve, la stanchezza si impadronì completamente di lei e si sentì andare alla deriva. «Ti conosco?» chiese mentre le si chiudevano gli occhi. «Suppongo di sì». Quando si svegliò di nuovo, sentiva il lato destro del suo corpo debolmente indolenzito ed aveva la sensazione che le fosse stato fatto un incantesimo di guarigione sulla lingua. Portò indietro la mente, cercando di ricordare ciò che era successo. Aveva parlato con Malfoy di Voldemort, degli Horcrux. Si ricordò improvvisamente la parola. Aveva finalmente fatto la sua domanda, che non era proprio una domanda, perché era quasi certa di avere ragione. Voldemort stava morendo. Poi tutto nella sua testa era come esploso. La stanza era diventata rossa e lei era crollata. Aveva avuto un attacco davanti a Malfoy. Quando si era svegliata la prima volta, era praticamente immobile e non ricordava nemmeno chi fosse lui. Le aveva somministrato la pozione per il sonno senza sogni. Ripensò allo scambio. Responsabile della sua cura. «Era un modo molto generoso per lui di descriversi», sbuffò. Spostò le spalle e provò ad aprire la bocca. La mascella le faceva male, ma riusciva a separare completamente i denti. Si sedette con cautela e si esaminò. Era stata curata. Le convulsioni non erano la sua specialità come guaritrice, ma Arthur Weasley ne aveva sofferto leggermente dopo essere stato maledetto da Lucius Malfoy. Aveva fatto delle ricerche. Il trattamento da usare era simile a quello per la Cruciatus, che conosceva bene. Non si trattava esclusivamente di guarigione con la bacchetta, ma di terapia magifisica. Si usavano incantesimi e poi si massaggiavano i nodi e la tensione con le mani. qualcuno l'aveva toccata. Come minimo le avevano massaggiato tutto il lato destro del corpo perché la tensione e la rigidità fossero alleviate così a fondo. Considerando che si sentiva quasi normale, sospettava di essere stata trattata su entrambi i lati, dalla mascella alle dita dei piedi. Rabbrividì leggermente, ma cercò di ragionare. Era guarigione. Solo guarigione. Aveva guarito centinaia e centinaia di persone. Curava ferite in ogni parte del corpo. Una ferita era una ferita. Una guarigione era una guarigione. Era abbastanza lontano da qualsiasi senso di sensualità o sessualità. Clinica. I corpi raramente venivano registrati come qualcosa più di qualcosa da curare. Ma comunque, il pensiero che qualcuno l'avesse toccata mentre era svenuta in casa di Malfoy la faceva stare male. Si strinse le coperte al petto, protettiva. Guardò il calendario sul muro e scoprì che erano passati 2 giorni dalla sua conversazione con Malfoy. Si spostò e sibilò, guardando in basso. Aveva i seni doloranti e ingrossati. Li fissò con orrore per diversi secondi, prima di ricordare che erano un effetto collaterale della pozione di fertilità che la Stroud le aveva dato. Fece una smorfia e si alzò dal letto. Malfoy l'aveva ripulita con un incantesimo dopo averla riportata nella stanza dalla sala di Voldemort, ma lei non aveva lavato via nulla di tutto ciò. Raccolse asciugamani e vestiti e andò in fondo al corridoio fino alla doccia nell'altro bagno. Una lunga doccia alleviò i dolori rimasti nel suo corpo, inclinò la testa all'indietro sotto il getto e ripensò al ricordo di Ron che aveva involontariamente evocato. Gli Horcrux, le percentuali delle vittime. E Ginny. Tornava sempre a Ginny. Ron era così scarno, così abbattuto dalla guerra. Aveva i capelli striati di grigio, anche se non poteva avere più di 22 anni. Aveva dimenticato quei dettagli. Aveva dimenticato come la guerra lo avesse divorato. Come lo stress si fosse manifestato fisicamente in lui. Pianificava le missioni con Moody e Kingsley. Aveva preso il suo talento per la strategia e gli scacchi magici e aveva imparato ad applicarlo alla guerra. Era così orgoglioso la prima volta che Kingsley aveva provato una delle sue strategie. C'era voluto del tempo perché Ron, Harry e l'esercito di Silente accettassero che la guerra sarebbe stata lunga. Pensavano che le comunità magiche si sarebbero sollevate a sostegno dell'ordine, che l'aver assistito alla sconfitta di Voldemort durante la prima guerra dei maghi avesse infuso nel mondo magico la fiducia del potere della luce. Ma Voldemort aveva imparato dalla prima guerra. Era più intelligente, prudente e astuto di quanto non fosse stato la prima volta, specialmente dopo i passi falsi della battaglia al Dipartimento dei Misteri. Aveva limitato il suo regno del terrore ai figli dei babbani, alle famiglie sangue sporco e ai traditori del sangue. Si era impadronito subito del ministero e aveva fatto etichettare l'Ordine della Fenice come organizzazione terroristica. Aveva fatto uccidere Silente nella scuola stessa del preside da un ragazzo di 16 anni. Qualsiasi fiducia che il mondo dei maghi potesse avere nel potere della luce era stata rapidamente soffocata. I nati babbani e i sangue sporco erano solo un frammento della popolazione. Era più facile per la comunità magica stabilita scegliere semplicemente di tenere la testa bassa e lasciare l'ordine a combattere Voldemort da solo. Ed era difficile combattere una guerra come gruppo terroristico. Anche avendo i soldi, andare a Diagon Alley e accedere a un caveau della Gringot era difficile. L'identificazione del ministero era diventata necessaria per comprare qualsiasi cosa, cibo o forniture di pozioni, e comprarne grandi quantità attirava sospetti. Dopo una battaglia, una persona ferita doveva essere portata in ospedale, ma qualsiasi ferita inviata al reparto danni da incantesimo richiedeva che il San Mungo contattasse il DMLE. I membri feriti della resistenza venivano accusati di terrorismo, messi agli arresti durante la convalescenza, per poi sparire in una delle prigioni di Voldemort al rilascio del Sammungo. La Resistenza non si era preparata a quanto sarebbero state decisive le incursioni iniziali di Voldemort. Non avevano fatto scorte, non avevano messo al sicuro abbastanza gente e non erano riusciti a nascondere con sufficiente attenzione quelli che avevano cercato di proteggere. C'era sempre qualcosa con cui la gente pensava di potersela cavare prima di andarsene, come un ultimo saluto, che però diventava qualche piccolo indizio che la tortura dei mangiamorte si era dimostrata capace di tirare fuori dai vicini. L'orgoglio che Ron provava quando le sue strategie venivano utilizzate svaniva rapidamente quando scopriva che era quasi impossibile concepire una schermaglia senza vittime. Le persone non erano pezzi riutilizzabili su una scacchiera. Quando venivano sacrificate, morivano. Orribilmente. E anche se si faceva tutto il possibile strategicamente per proteggerle, non sempre si comportavano come da istruzioni o previsioni. E anche se lo facevano, il nemico non lo faceva. Ron tendeva a prendere ogni morte e ferita come una responsabilità personale. Il lustro dell'eroismo e l'invidia che aveva per Harry svanirono. La guerra gli fece passare rapidamente la gloria e la comprensione legò lui e Harry ancora più strettamente, riparando qualsiasi frattura che la sua gelosia passata aveva creato negli anni. Diventarono uniti nel senso di colpa, nella determinazione e nell'idealismo, più vicini che fratelli. Era rimasto poco spazio per Hermione. Sospirò e abbassò la testa, sentendo l'acqua scivolarle lungo le guance. Contorse le labbra e tremò mentre ripensava a Hogwarts. Harry, Ron e Hermione, il trio inseparabile. Fino alla morte di Silente, quando lei aveva scelto pozioni e guarigione, invece di studiare la magia difensiva con Harry e Ron e il resto dell'esercito di Silente. Passava i giorni a studiare la guarigione con Poppy Pomfrey, le notti a studiare pozioni con Piton. Trascurava le amicizie. Anche i suoi voti peggiorarono. Aveva poco tempo da dedicare alla pratica con gli incantesimi di difesa. Tutti studiavano quello. Nessun altro sembrava preoccuparsi delle ferite o di come contrastare le maledizioni, o di essere in grado di preparare le pozioni necessarie per guarire le ferite. Per un mese, dopo la battaglia del Dipartimento dei Misteri, aveva dovuto prendere 10 pozioni diverse al giorno per riparare tutti i danni interni della maledizione non verbale di Dolohov. Era stata fortunata a sopravvivere. Quando Silente era morto, solo pochi mesi dopo, si era sentita profondamente consapevole del ruolo vitale che la guarigione e le pozioni avrebbero avuto nel determinare se la Resistenza fosse sopravvissuta alla guerra abbastanza a lungo da vincerla. Ma era l'unica a preoccuparsene. Tutti la consideravano paranoica. Gli ospedali erano un territorio neutrale. Se qualcuno avesse avuto bisogno di cure, ci sarebbe sempre stato il Sammungo a cui rivolgersi. Ma loro erano terroristi e gli ospedali non erano neutrali per i terroristi. Quando Voldemort aveva bruscamente preso il controllo del ministero, il primo atto firmato dal ministro Otus fu la legge sulla restrizione dei nati babbani. Era stata una mossa accuratamente pianificata e strategicamente studiata. Gli Auror nati babbani del DMLE e i guaritori del Sammungo furono arrestati e le loro bacchette spezzate prima che potessero rivolgersi all'ordine. Sarebbero stati membri inestimabili della Resistenza se l'ordine fosse riuscito a raggiungerli in tempo. Invece, l'organizzazione terroristica si trovò bruscamente tagliata fuori dal mondo, lasciando per breve tempo Poppy Pomfrey come loro guaritrice più esperta. Tutti i combattenti della Resistenza venivano portati da un insegnante di scuola per guarire dalle ferite e dalle maledizioni oscure. Kingsley riuscì a reclutare 2 guaritori di medicina generale per allestire un ospedale semifunzionale. Tuttavia, data la tendenza di Voldemort a punire intere famiglie, La maggior parte dei maghi era riluttante a lasciarsi alle spalle tutta la propria vita e ad allearsi con l'ordine, se non era necessario. A quel punto, la guerra si era concentrata in Gran Bretagna. Una volta preso il Ministero della Magia britannico, gli ospedali magici europei, simpatizzanti della Resistenza, si misero segretamente in contatto con loro e offrirono loro un addestramento specializzato nella guarigione della magia nera e delle maledizioni. Hermione era stata l'unica persona con sufficienti conoscenze di base per qualificarsi e di cui l'ordine aveva potuto fare a meno. Non era certo una domanda. L'ordine aveva bisogno di un guaritore d'emergenza e se non poteva reclutarne uno, avrebbe dovuto crearlo. Lei era utile allo scopo. Le era stato dato appena il tempo di dire addio prima che Kingsley la facesse uscire clandestinamente dalla Gran Bretagna. Non sapeva quando sarebbe tornata. Si era addestrata ossessivamente per quasi 2 anni. Era quasi alla fine quando il rifugio che l'ordine usava come ospedale era stato compromesso in seguito ad una battaglia. Un mangiamorte aveva afferrato Ernie Macmillan mentre si stava materializzando lì. Una volta all'interno delle barriere, era sparito immediatamente e tornato con diversi altri mangiamorte alle calcagna. Al di là dell'incantesimo Fidelius, l'ospedale non era ben protetto. Non c'era un piano di evacuazione, nessuna guardia. Ci fu un bagno di sangue prima che l'ordine riuscisse a riunirsi e rispondere. Avevano perso i 2 guaritori che avevano reclutato, gli apprendisti guaritori, Horace Lumacorno e quasi tutti i combattenti feriti in convalescenza lì. Avevano lasciato Ernie vivo per dispetto. L'ordine quindi aveva bisogno che Hermione tornasse immediatamente. Voldemort aveva permesso ad Antonin Dolohov di creare una divisione per lo sviluppo di nuove maledizioni. Nelle battaglie venivano usati quindi anatemi nuovi e mortali, che richiedevano un'analisi avanzata degli incantesimi per essere contrastati. La specialità di Hermione. Avevano anche bisogno di sostituire il loro maestro di pozioni, ed Hermione si era qualificata per fare anche quello. Entro 3 giorni Kingsley era andato personalmente all'ospedale magico austriaco dove aveva studiato e l'aveva riportata in Inghilterra. In sua assenza, Harry e Ron si erano riformati in un duo. Al suo ritorno il trio aveva cercato di riprendere la loro amicizia, ma quei 2 anni li avevano mandati in direzioni separate. Hermione non era stata in grado di condividere la convinzione idealistica che la luce, per la sua intrinseca qualità di bontà, alla fine avrebbe cambiato le sorti della guerra. Ai suoi occhi sembrava che la sorte stesse girando costantemente sempre più contro l'ordine. Dal momento in cui era tornata in Inghilterra, aveva vissuto nel nuovo ospedale, allestito al 2° piano di Grimwald Place. Passava i giorni e le notti a guardare la gente morire, a guardarli mentre si rendevano conto che stavano per morire. Cercava di salvarli. Si sedeva accanto a loro e spiegava il più delicatamente possibile che non avrebbero mai più parlato, mangiato, visto, camminato, che non si sarebbero mai più mossi, che non avrebbero mai avuto figli, che il loro compagno, il loro coniuge, i loro genitori o i loro figli erano morti mentre erano incoscienti. Aveva vissuto ogni giorno nelle conseguenze delle battaglie, respirato la devastazione fino ad affogarci dentro. Non le era permesso di combattere, non le era permesso di scendere in campo. Era troppo preziosa come guaritrice e maestra di pozioni. L'ordine non poteva rischiare di perderla. Si ritrovava all'infinito davanti alle conseguenze di battaglie su cui non aveva alcuna influenza. Così usò quello che aveva, la sua voce e la sua posizione come membro dell'ordine. Usò il suo posto nelle riunioni per sollecitare l'ordine ad espandere l'addestramento oltre la magia difensiva. Non stava sostenendo la tortura o le maledizioni senza perdono. Voleva solo che i combattenti della Resistenza avessero effettivamente il permesso esplicito e non solo tacito di uccidere mangiamorte per autodifesa. Non aveva pensato che potesse essere una posizione particolarmente fragile o complicata da coprire a 3 anni dall'inizio di una guerra. Invece, lo era. Harry era stato irremovibile. Non avrebbero usato la magia nera. Non avrebbero ucciso le persone. La maggior parte dell'ordine si era allineata alla sua visione. Hermione era stata la schietta esclusa. E la cosa aveva progressivamente eroso la maggior parte delle sue amicizie. Non era del tutto sorprendente che Ginny avesse concluso che Piton era l'unica persona con cui Hermione avrebbe potuto avere una relazione. Aveva ragione, era rimasta quasi completamente sola. Sospirò tra sé e sé e spense l'acqua. Se avesse fatto qualcosa di diverso, avrebbe potuto cambiare l'esito della guerra. Se si fosse dedicata alla difesa, se non si fosse dedicata alla guarigione o alle pozioni, se non fosse partita per 2 anni, avrebbe fatto qualche differenza, salvato qualcuno. Un gruppo le si formò in gola mentre ripeteva la provocazione di Malfoy di mesi prima. «Non hai nemmeno combattuto durante la guerra, vero? Non ti ho mai visto. Non eri mai in giro con Potter e Weasley. Ti sei nascosta. Passavi tutto il tempo in ospedale, agitando inutilmente la bacchetta, salvando persone che sarebbero state meglio da morte». Deglutì con forza e strinse le labbra in una linea dura mentre usciva dalla doccia e si asciugava. Si fermò un momento e fissò il suo riflesso. Odiava il suo riflesso. Odiava vederlo. Cercava di distogliere lo sguardo ogni volta che incontrava uno specchio. Riconosceva a malapena la persona che trovava nel vetro. Nei suoi ricordi di se stessa era dimagrita per lo stress e la malnutrizione. Era pallida per essere reclusa in casa, a guarire e preparare pozioni. I suoi capelli ingestibili erano sempre accuratamente legati in trecce strette che teneva arrotolate dietro la testa. Era ossuta e aveva gli arti sottili. I suoi occhi erano grandi e scuri, ma con il fuoco dentro. Ora il viso non era più magro. Grazie all'alimentazione adeguata non aveva più le guance scavate. Grazie alle passeggiate regolari aveva un colorito migliore, un leggero rossore naturale. Senza pettine né fermagli, poteva solo pettinarsi con le dita e lasciare i capelli sciolti. Cadevano in una massa tumultuosa di onde e riccioli fino ai gomiti. Le ginocchia, i gomiti e le ossa dell'anca e le costole non sporgevano più. Aveva accumulato massa muscolare esercitandosi. Sembrava in salute. Anche abbastanza. Normale. Come una Hermione di un'altra vita. Ma gli occhi? Gli occhi erano morti. Non c'era più fuoco. La scintilla che considerava più intrinseca a ciò che era si era spenta. Era un cadavere che camminava. Si allontanò dallo specchio e si vestì. La pozione aveva compromesso la vestibilità del vestito. I bottoni sopra il seno tiravano. Poteva vedere i capezzoli attraverso il tessuto. Piegò le spalle verso l'interno per cercare di nasconderlo e si tirò i capelli sulle spalle. Quando tornò nella sua stanza, trovò il pranzo pronto. Mangiò un'insalata di cetrioli e guardò fuori dalla finestra. La neve si era sciolta. La proprietà era composta da un grigio senza fine. Anche il cielo era grigio. Stava ancora fissando fuori dalla finestra quando la porta scattò. Diede un'occhiata e scoprì che Malfoy era entrato. Indossava i suoi abiti da caccia. Erano puliti, quindi la sua ipotesi era che stesse uscendo piuttosto che tornare. Lo fissò. Senza tunica era notevolmente alto e snello. L'abbigliamento era tutto nero, ma gli avambracci, il petto e le gambe avevano una protezione d'argento metallico. Un'armatura di pelle di pancia scovato ucraino, concluse Hermione dopo averlo studiato per un momento, per proteggersi da incantesimi e armi. a meno che non avesse un hobby per cui domava i draghi di cui non era a conoscenza. In una mano stringeva un paio di guanti. Si chiese se aveva indossato quella divisa quando aveva ucciso Ginny, Minerva McGranit, Alastor Moody, Neville, Dean, Seamus, la Sprout, Madama Pomfrey, il professor Flitwick e Oliver Wood. Probabilmente la indossava sempre sotto gli abiti da mangiamorte. La pelle di pancia scovato era altamente resistente alla magia e quasi impenetrabile agli attacchi fisici. In un duello, a meno che l'aggressore non riuscisse a piazzare un colpo in testa o usasse una maledizione mortale, sarebbe stato difficile da battere. Qualcuno con le manette che bloccavano la sua magia non avrebbe avuto alcuna possibilità contro di lui. D'altra parte, quando mai Serpeverde si erano preoccupati di combattere realmente? I suoi occhi incontrarono quelli di lei dall'altra parte della stanza e la studiò attentamente. Lei incrociò le braccia sul petto. «Ti ricordi di me adesso?» chiese. «Con mio profondo sgomento», rispose lei, distogliendo lo sguardo da lui. Malfoy si avvicinò lentamente. «Ho informato la Stroud dell'accaduto. A quanto pare non si era preoccupata di verificare che la pozione per la fertilità non avrebbe interagito negativamente con una sessione di legimanzia», disse con un lieve ghigno. «Dubito che questa combinazione sia qualcosa di regolarmente studiato dai maestri di pozioni», disse Hermione con voce secca. Ci fu una pausa e Malfoy tirò fuori dal nulla un giornale e glielo porse. Lei glielo strappò dalle sue dita con un'espressione curiosa. «È chiaro che hai fatto buon uso delle tue letture», disse lui mentre lo apriva. «Trattati di pace in Scandinavia!» annunciava la prima pagina. Lei sorrise tra sé e sé mentre sfogliava l'articolo. «Come hai fatto a indovinare?» disse lui, dopo un minuto di silenzio. Lei alzò la testa. «Questo?» disse, allargando innocentemente gli occhi e indicando l'articolo. Lui roteò gli occhi. «No!» arricciò gli angoli della bocca. «Sono una guaritrice», disse. Poi abbassò lo sguardo sui suoi polsi. «O lo ero, almeno. Mi sono specializzata nella guarigione della magia nera. Conosco i segni della corrosione. Alcuni tipi di magia, se usati troppo, si trasformano in veleno nel corpo. Il corpo e la magia cercano di assimilarla. Una volta che arriva a livello cellulare, però, non si può più tornare indietro. Mangia il corpo dall'interno». Mise da parte il giornale. «Ovviamente è ancora molto potente. Uno dei maghi più potenti del mondo, ma fisicamente si sta deteriorando. Anche tutto quel sangue di unicorno che beve e in cui si bagna non riesce a gestire a sufficienza i sintomi. Giacere in stato di torpore sotto un nido di serpenti sta solo ritardando l'inevitabile. Anche se è immortale, presto sarà poco più di un'ombra. Svanirà nell'etere. Con Harry morto, non ha modo di rinascere di nuovo. Se tutti i suoi Horcrux sono stati distrutti, lui semplicemente cesserà di esistere». Malfoy la guardò bruscamente. «I legami si chiamano Horcrux, vero?» chiese lei. Lui annuì, lentamente. «Nuovo ricordo?» disse. Lei annuì. «Durante la guerra», disse, appoggiandosi alla sedia, «l'ordine stava dando loro la caccia. Ron e Harry erano stati assegnati a questo compito». «Nient'altro?» disse, la voce bassa e pericolosa. «Ron era arrabbiato per il tasso delle vittime delle missioni. Stavamo morendo di fame. Ma dubito che tu già non lo sapessi», disse lei a bassa voce. Lei lo guardò fisso, aspettandosi che si muovesse immediatamente per invadere la sua mente, per verificarlo, ma lui si limitò a fissarla. Distolse lo sguardo. Dopo un minuto lo alzò nuovamente, esitando. Lui lo notò e inclinò la testa, inarcando un sopracciglio. «Kingsley Shacklebolt», disse. «Anna non mi ha parlato di lui. tutti continuano a dire che sono tutto ciò che resta dell'ordine, ma non ricordo, è morto qualche mese prima della battaglia finale», disse Malfoy, distogliendo lo sguardo e indurendo leggermente la mascella. Hermione l'aveva immaginato, ma provò comunque un forte dolore al petto quando sentì la conferma. Era sicura di sapere già la risposta anche alla sua prossima domanda. «Eri tu quello che...» Lui incontrò i suoi occhi e annuì. «Si è messo sulla mia strada».